cavolo per te, vado al massimo per te, io mi illumino per te, anche quando non mi baci per orgoglio posso farlo io per te, vado in terapia per te, scaglio io la prima pietra, mi rovino la carriera, presa da una furia cieca, per calmarmi sto svuotando il portafoglio, io mi indebito per te, ma te lo giuro su Maria, l'amore cieco è una teoria, non parli mai di gelosia, ma io lo so, anche un maschio a volte piange, se fossi nella tua camicia o anche più giù, mi diresti pervertita o peggio fai tu, ma perdona i miei peccati come ha fatto Gesù, come hai fatto con le altre, se fossi un maschio io mi venderei per tutto, per zero. Mi venderei per finta e davvero, io mi venderei solo col pensiero, solo per lei, solo per lei. Che succede la notte? Ma che succede la notte? L'orologio si mette a correre come me nella bufera, per seguire una chimera, invertire Adamo ed Eva, fare a botte anche se non c'è bisogno, spacco il tavolo per te. Ma te lo giuro su Maria, l'amore cieco è una teoria, non parli mai di gelosia, ma io lo so, anche un maschio a volte piange, se fossi nella tua camicia o anche più giù, mi diresti pervertita o peggio fai tu, ma perdona i miei peccati come ha fatto Gesù, come hai fatto con le altre, se fossi un maschio io you mean.